Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. the Capuchin monkey, a highly intelligent primate known for its loving and generous nature. Excuse me? I just thought that was... I just was laughing in agreement. Happy monkey. Thank you. Vi ho introdotto la musica dei Misophone esattamente una settimana fa e ce li siamo appena riascoltati con The Sea Has Spoken. Prima ancora invece era stata la volta di Atlas Sound con il pezzo intitolato Requiem for All the Lonely Teenagers with Passed Out Moms. E Giulio Caperdoni a tenervi compagnia anche questa sera fino alle ore 20, che vi mette a disposizione tutto quanto vi ascoltate all'interno delle playlist che potete o recuperare su myspace.com/eclettica oppure ricevere direttamente nella vostra casella di posta se entrate a far parte della lista nera. Basta mandare un mail a giulio@radiorockfm.com per esserlo. Nella playlist quindi trovate il dettaglio delle canzoni, il dettaglio dei film e il dettaglio delle letture che costituiscono appunto Eclettica. Come anche l'indicazione della prossima cover. È una cover da parte dei Y, la band californiana che ci siamo ascoltati anche recentemente con la loro nuova prova e che qui invece vanno a rifare i Cure. È una di quelle cover che stravolge l'originale. Sono sicuro che anche voi avete lo stesso parere. Questo originale è assolutamente stravolto. Close to Me, loro sono i Y a rifare i Cure. I've waited hours for this. I made myself so sick. I wish I stayed. Sleep today.

Probabilmente la miglior canzone alla Pixies da molti anni a questa parte. Addirittura direi da quando si sono sciolti parecchi anni fa. Poi è vero, ci sono state le singole carriere soliste, c'è stata la reunion, ma mai più canzoni di livello alla Pixies. Questa chiaramente vuole essere una sorta di provocazione, perché non c'entrano niente con i Pixies, i Blood on the Wall che ci siamo appena ascoltati, se non nel tributo di amore che dichiarano di volta in volta nelle interviste che fanno, come quelle per esempio di promozione del loro ultimo album, dal quale ho estratto Junkie Julie. Prima ancora invece uno di quelli che rappresentano i miei ascolti personali del momento, uno di quei brani che tutte le volte che partono mi fanno fermare qualunque cosa io stia facendo per seguirlo dal primo all'ultimo secondo, fischiettandolo o canticchiandolo. Robot High School da parte di My Robot Friend. E si chiude Eclettica di quest'oggi con una formazione canadese che chi ha visto nei festival in giro per il mondo nell'estate 2007 ha avuto occasione di notare. Si chiamano Holy Fuck, vengono da Toronto e sono usciti nel 2007 con un album dal titolo Young Turks, dal quale vado ad estrarre Lovely Allen. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 13, volume numero 3, Indice, Ursula Poins, Saddlefish, Amina assieme a Lee Hazelwood, The Main Drag a rifare gli LCD Sound System, Ravionettes, Atlas Sound, Misophone, Why a rifare Cure, My Robot Friend, Blood on the Wall, Holy Fuck. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.